377. Zucchini ripieni. Gli zucchini, per farli ripieni, si possono tagliare o a metà per il lungo o a metà per traverso, o anche lasciarli interi. Io preferisco quest'ultimo modo, come più elegante, e perché gli zucchini fanno di sé bella mostra. Comunque sia, vanno vuotati per far posto al ripieno. Per vuotarli interi, meglio è il servirsi di un cannello di latta che si fa passare dal basso all'alto. Ma se per la maggior grossezza dello zucchino il vuoto non paresse grande a sufficienza, allargatelo con un coltellino sottile. Per fare il ripieno, prendete del magro di vitella di latte, tagliatelo a pezzi e mettetelo al fuoco in una cazzaruola con un battutino di cipolla, prezzemolo, sedano, carota, un poco di carne secca tagliata a pezzettini, un poco d'olio, sale e pepe. Rivoltatela di frequente col mestolo e quando la carne avrà tirato tutto l'umido e preso colore, versate un ramaiolino d'acqua. Dopo che avrà tirato anche questa, versatene un altro e dopo poco un altro ancora per finire di cuocerla, avvertendo che vi resti del sugo. Allora questo passatelo e lasciatelo in disparte. Tritate la carne asciutta a ben fine con la lunetta e con un uovo, un poco di parmigiano grattato, una bidolla di pane bollita nel brodo o nel latte e l'odore delle spezie. Fate tutto un composto e servitevene per ripieno. Preparate così gli zucchini, metteteli a soffriggere nel burro, cui farete prima prendere il color nocciuola e per ultimo tirateli a cottura col sugo già messo da parte. Gli zucchini si possono riempire anche col composto del numero 347 e mancandovi il sugo di carne potete cuocerli o col solo burro o con burro e salsa di pomodoro. Numero 125.